Il 25 aprile con il movimento No Base saremo davanti a Camp Derby, da cui partirà una mobilitazione che raggiungerà il presidio di pace di Treppini, che il mese scorso è stato sgomberato, con l'intenzione di ricostruire un luogo di comunità e un presidio di pace all'interno di un parco naturale che da decenni viene militarizzato e trasformato per fini bellici. Il nostro territorio è in qualche modo all'occhio del ciclone, al centro di questi processi di guerra globale che stanno portando l'umanità verso il baratro, e per questo sentiamo l'esigenza e l'urgenza di agire ognuno di noi nei propri contesti di vita e di lavoro per fermare questo regime di guerra. Un mese fa abbiamo bloccato un carico di armi alla stazione di Pisa, pochi giorni fa i portuali di Livorno hanno bloccato un carico di munizioni ed esplosivi al porto di Livorno. Queste piccole azioni da sole possono già fare molto, possono ostacolare la guerra, ma insieme possiamo e dobbiamo fermarla. Per questo chiamiamo la città a scendere in strada con noi, a fare di questo 25 aprile una data di lotta e di resistenza, di liberazione dal regime di guerra che sta trascinando le nostre vite verso il baratro.